la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:08 primi e 19 secondi in diretta da Milano, ancora assolata. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast. Oscar Giannino vi dice subito di che cosa parliamo oggi. È una puntata nella quale, traendo spunto da una tra virgolette battaglia di cui ci siamo occupati più volte nel corso degli anni, cioè quella iniziata a Torino da parte di alcune famiglie che a fronte dell'aumento molto significativo del costo della mensa scolastica hanno iniziato a chiedere venisse rispettato il loro diritto all'alimentazione portandosela da casa, il no dell'amministrazione e poi lunghi ricorsi legali e impugnative fino a una sentenza della Corte d'Appello di Torino del giugno 2016 che alla fine ha riconosciuto il diritto sulla base delle famiglie. Sulla base di questo, il fenomeno a Torino, faremo il punto oggi, si estende in altre città. L'amministrazione scolastica continua a essere a livello nazionale risolutamente contraria, perché il Ministero dell'Istruzione ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Torino. Nel frattempo il fenomeno, e vedremo quanto, si estende nelle città. Abbiamo più volte ricordato il presupposto di questa battaglia a fronte dei prezzi che aumentano, ma anche in termini di diritto, del diritto delle famiglie di poter pensarci da soli alla refezione dei propri figli. Ricordate le obiezioni dell'amministrazione scolastica, il rischio di contagio per i cibi portati da casa nei confronti di quelli della mensa, poi l'obiezione di locali separati, quindi significa personale aggiuntivo, ma il problema è il riconoscimento del diritto. L'amministrazione si oppone perché il problema di fondo è quello economico, nel senso che le gare indette, e infatti io mi becco ogni volta le critiche anche delle imprese del settore specializzate nel catering scolastico che partecipano alle gare, le gare sono fatte e sono aggiudicate sulla base della platea totale, e quindi per le amministrazioni il problema del riconoscimento del diritto delle famiglie è una noia mortale, perché significa esporsi alla retrocessione di risorse alle aziende aggiudicatarie. Questo è il problema economico sottostante. Naturalmente per i libertari come me si tratta del riconoscimento di un diritto, ma al di là di questo ne approfittiamo per fare una riflessione più ampia, visto che lo Stato si riserva il diritto di dirci che si mangia quello che decide lui perché è più sano. Ecco, io anche su questo ho delle obiezioni che molti di voi non condivideranno, ma non credo che lo Stato mi debba dire che cosa io posso mangiare e che cosa io debba da mangiare ai miei figli, con dei limiti, come è ovvio. La tutela dei minori e dei bambini riguarda la loro salute, la loro sicurezza. Io sono dell'idea che non si possono sottoporre a regimi alimentari che sono un rischio per la loro salute, magari altri pensano il contrario. Non voglio rubare il mestiere a Giuseppe Cruciani e quindi non mi pronuncio su diete vegane e così via per i bambini e i bimbi piccolissimi, ma ci siamo posti il problema oggi anche di approfittare di uno studio accurato che è stato fatto su tutte le proposte di legge di tutti i partiti, 5 Stelle, Forza Italia, PD, depositate in Parlamento in questa legislatura, che hanno appunto come oggetto e finalità lo Stato che decide che cosa mangiare. Si tratti di modi alimentari, tutele per la sicurezza, convinzioni che un cibo piuttosto che per l'altro siano da preferire, e da preferire in legge, con lo Stato che stabilisce incentivi, disincentivi, strumenti e menù, ci è sembrato un'occasione di estensione della riflessione, e io su questo sono molto curioso di sapere come la pensate. Chiamateci l'800 24 00 24, le opinioni a 349 238 6666. Spetta allo Stato e alla legge stabilire queste cose secondo voi? Cioè, la tutela, il principio della precauzione si estende a che cosa si mangia, e dello Stato che deve normarlo? Io non sto parlando, adesso vedrete perché è con noi, ve lo presento subito, l'autore della ricerca, non sto parlando solo di che cosa si mangia in mensa, perché di che cosa si mangia in mensa ci tratta di essere ragionevolmente certi che sia una dieta bilanciata, che gli alimenti siano tutela e sicurezza alimentare, eccetera, eccetera. No, il problema è promuovere i modelli alimentari per legge. Allora, siccome non vorrei mai che tra qualche settimana, quando la legge di bilancio entrerà nel vivo al Senato, l'ultimo mese a dicembre, dove ci sarà il vero braccio di ferro tra MDP, articolo 1, usciti dal PD, che sono necessari al governo per avere la maggioranza al Senato, e magari anche qualche proposta che viene dal PD, che ne so, di ampliamento delle proposte di abbassamento dell'età pensionabile rispetto al governo che ha detto no, e a quel punto ci potremmo ritrovare, io lo temo molto, a fine dicembre a sfondare l'1,6 di deficit che Padoan, secondo me responsabilmente, ha posto per il 2018, vedrete che a quel punto fioriranno nuove ipotesi fiscali di copertura e magari ci troveremo di nuovo in presenza del rifiorire di un'ipotesi, per esempio l'aumento dell'accisa, della tassa sulle bevande gassate a fini di sicurezza alimentare. È un classico, quella proposta ogni fine anno fa capolino di nuovo nell'armamentario di chi propone più spesa pubblica e rientra anch'essa in questo novero. Quindi una puntata in cui ci poniamo un problema generale: che pensa la politica attraverso le sue proposte di legge sulla promozione delle diete con legge di Stato, e poi i numeri dell'estensione del fenomeno dell'obiezione alla refezione di Stato, e poi sarà anche con noi nella seconda parte un sindaco che ha recentemente detto no, qui nel nostro comune non c'è questo diritto per le famiglie, obbligo di mensa, esattamente come faceva Torino all'inizio, e Benevento, e sarà con noi il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Ma cominciamo con l'autore di questa bella ricerca, la trovate sul sito dell'Istituto Bruno Leoni, il cui titolo è Pane met salutem, tra mode alimentari e legislazioni, ed è Giuseppe Portonera, fellow dell'Istituto Bruno Leoni. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio Oscar, e grazie a te per questo graditissimo invito. Allora, quante proposte di legge e di che partiti hai esaminato? Allora, nello studio che ho preparato per l'Istituto Bruno Leoni ho analizzato circa una ventina di proposte fra le più significative, che trattano degli argomenti che hai prima indicato tu, e che soprattutto il primo elemento da evidenziare è come esse siano assolutamente trasversali rispetto alle appartenenze dei partiti, e nel senso cioè che abbiamo proposte che vanno da tutto lo spettro politico, dal PDL, poi Forza Italia da una parte, fino ai 5 Stelle, ma passando anche per molte significative proposte del Partito Democratico. E sono proposte che trattano di educazione alimentare nelle scuole, soprattutto, è un tema battutissimo dai vari proponenti, che si lega al tema della promozione di particolari diete da una parte, e al corrispondente scelta di valutare invece le opposte scelte dietologiche. Ma abbiamo anche la valorizzazione di prodotti agricoli e alimentari cosiddetti biologico, con tutto quello di controverso che si lega a questo tema, fino a veri e propri divieti, cioè scelte di vietare il ricorso a o limitare, nelle ipotesi migliori, l'uso di alcuni alimenti o sostanze. Poi sono le proposte che, per comodità di comprensione, abbiamo distinto fra quelle che promuovono in maniera più o meno invasiva un modello alimentare ritenuto come sano, e invece queste proposte che in modo molto più netto e immediato introducono veri e propri divieti. Allora, io, diciamo così, metterei in un angolo quelle che posso capire benissimo, quelle che promuovono, quindi prevedono l'introduzione di insegnamenti di educazione alimentare, quindi diete bilanciate, e che nella scuola vorrebbero introdurre questo tipo di insegnamenti, perché quelle, secondo me, sono comprensibili, per così dire. Si tratta del fatto che i giovani si vedano offerte delle nozioni elementari, ma anche poi scientificamente comprovate, sul fatto che l'alimentazione è una componente fondamentale della propria salute, e quindi va fatta in maniera equilibrata. Ma mi interessa capire, con qualche esempio, se ci puoi fare qualche esempio, di che cosa vuol dire per legge promuovere una dieta piuttosto che un'altra, cioè? Abbiamo in questo senso proposte vere e proprie, c'è ad esempio una proposta a firma Cenni, quindi del Partito Democratico, Cenni ad all'onorevole Cenni ed altri, che promuove un'alternativa alimentare, innanzitutto direi sulla base di una scelta quasi culturale, nel senso cioè che la proposta di legge, che è la 2403 presentata alla Camera, sostiene che il nostro modello alimentare in un certo senso abbia subito delle modificazioni da elementi di oltreoceano, questo è un tema che ricorre spesso, e quindi la moda, la scelta alimentare mediterranea, la dieta mediterranea sia stata alterata da fattori e non autoctoni. Ora, come giustamente dici tu, quando si parla di educazione alimentare è difficile trovare qualcuno che obietti che la tutela della salute dei più piccoli, specialmente a scuola, sia un argomento sacrosanto. Il problema, ed è quello che è emerso dalla mia ricerca, è che dietro un fine così condivisibile allinea il rischio che si promuovano scelte pericolose, preoccupanti, e soprattutto perché si tratta di, ad esempio, questa proposta che ho appena menzionato, contrassegnate da un forte pregiudizio anti-industrialista, ad esempio, e cioè di opposizione, anche di forte pregiudizio nei confronti del mercato e dei moderni. Perché? Perché ad avere, appunto, secondo per esempio la proposta Cenni, ad aver alterato e condotto ad abbandonare sempre di più le tecniche agricole nostrane, tra virgolette, ci sarebbe appunto che cosa? Le solite multinazionali americane, gli OGM, così via, eccetera, eccetera, il fast food. Qui l'antiindustrialismo, ce ne siamo occupati qualche giorno fa a proposito del glifosato nella pasta e nella polemica tra Coldiretti e i numeri e ciò che dice la scienza sulla pasta che mangiamo, che sottolineo 7 volte non comporta alcun tipo di rischio, ed eccoci qua in presenza di una proposta di legge di pregiudizio più ampio. Però ce ne sono alcune, io devo dire la verità, ho letto e vi invito a leggere, cari ascoltatori, perché le proposte sono numerosissime, ma vale la pena. Per esempio, ce n'è una secondo la quale, sto parlando in questo momento della proposta di legge a firma Busto dei 5 Stelle e altri, che sulla base del fatto che la scelta alimentare oramai non è più una questione solo individuale o di etica individuale, ma è una questione planetaria, arriva a prevedere l'obbligo per legge per i luoghi di ristorazione un giorno alla settimana di somministrare solo menù privi di qualsiasi alimento di origine animale. Ecco, la legge dovrebbe servire a questo. Sì, e soprattutto, come giustamente dici tu, quelle che volevano essere, o almeno sono all'inizio, delle proposte, ad esempio, di garanzia dell'opzione vegana e vegetariana, anche qui uno potrebbe dire la tutela della scelta del consumatore potrebbe essere pure tutelata per legge. Il problema è che il contraccolpo necessario quasi della tutela dell'opzione vegetariana o vegana è quella di vietare almeno per un giorno il ricorso al e agli alimenti non vegani e non vegetariani, quindi qualsiasi alimento per l'appunto di origine animale, e in questo senso si tradisce un impianto fortemente illiberale, perché ancora una volta non ci sarebbe nulla di male se per un giorno a settimana gli esercenti liberamente scegliessero, per andare incontro peraltro a una domanda che sembra è sempre più crescente, di offrire solo un menù vegano. Il problema è che quando diventa un'imposizione ex legge solleva naturalmente tutte le resistenze possibili, perché in questo senso noi finiamo per passare, ed è poi un po' il fil rouge che preoccupa tutti i risultati della ricerca, si passa dal libero confronto delle idee, che è sacrosanto, e dunque la possibilità che le persone siano convinte dalle bontà degli argomenti portati, invece a quello della coercizione. Quindi non si tratta più di convincere le persone che una determinata dieta sia preferibile rispetto agli altri, ma il comando sovrano del legislatore che ti dice questo è meglio di quest'altro, e dunque siccome forse non sei un adulto in grado di occuparti della tua stessa salute, sono io che decido per te cosa è meglio mangiare. Oh, la trasversalità, facciamo un altro esempio per dire che quindi stiamo scegliendo dalla lista delle proposte, ma non è che abbiamo detto uno del PD o dei 5 Stelle, però in materia di diffusione della dieta vegana eccetera, c'è anche la proposta di onorevole Brambilla, Forza Italia, sì. PDL, quindi non è che siamo trasversali. Sì, sì, esattamente, anzi è una delle più convinte sostenitori in questo senso, anche nei toni un po' che lasciano forse dal il partito che aveva auspicato la rivoluzione liberale, lascia un po' sorpresi, diciamo, anche per l'attacco che proprio lei fa a queste mode d'oltreoceano che si coniugano addirittura con una sorta di malsana opulenza che la nostra società mostrerebbe nel consumare cibi di origine animale e non invece solo vegani o vegetariani. Ora, nell'introduzione Giuseppe Portonera parte proprio richiamando ciò che costituì un servizio di copertina della rivista Altro Consumo nel 2015 e che del resto si fondava su anche articoli scientifici pubblicati su giornal specializzati come l'American Society for Nutrition e così via. Ecco, che cosa sosteneva a proposito dei cibi tra virgolette biologici questa copertina di Altro Consumo che si rifaceva poi a tanti altri studi? E Altro Consumo ha fatto questo servizio interessantissimo in cui si mostrava proprio sulla base di comprovati dati scientifici che la frutta e la verdura biologica in commercio in realtà non sono né più ricche di nutrienti né più salutari di quelle non biologiche. E hai fatto riferimento all'American Society for Nutrition, su cui si è basato anche lo studio di Altro Consumo. E questa società ha passato in rassegna quasi 99.000 pubblicazioni scientifiche, quindi quasi l'intero spettro delle pubblicazioni in materia, alla ricerca di evidenze fondate sul fatto che i cibi biologici avessero differenze nutrizionali positive rispetto a quelli non biologici. E ha dovuto concludere nel senso di escludere categoricamente una simile affermazione. Quindi questa assenza di comprovati dati scientifici non fa altro che aumentare l'allarme rispetto all'intervento coercitivo vero e proprio del legislatore, perché già la coercizione è difficilmente giustificabile in assenza di danno ad altri individui, ma quando questa coercizione interviene e non appoggiata su veri elementi di fatto, ma più su convinzioni che sono accarezzate e promosse da determinati ambienti, è chiaro che qui la paura diventa ancora maggiore, perché rischiamo forse di fare più il male che il bene degli individui. Allora, c'è anche una proposta dell'onorevole Razzi che è sulla problema dell'obesità, ma questa la lascio volentieri a chi poi si occupa di colore. Allora, io ringrazio Giuseppe Portonera perché questo esame, naturalmente non c'è possibilità che nessuna di queste venga approvata in legge, o no, Porto Giuseppe? In realtà, allora, la maggior parte di queste proposte non ha visto neanche iniziato il proprio esame parlamentare, specialmente quelle più di colore come quella dell'onorevole Busto che hai menzionato prima, ma ce ne sono alcune, ad esempio quella dell'onorevole Faenzi, PDL, quindi ancora una volta la trasversalità, che è rientrata nella legge antisprechi, e addirittura una legge promossa dal governo Letta sull'obbligo degli esercenti di servizi di refezione di garantire una quota adeguata di prodotti e che provengono da filiera cosiddetta corta o biologica, che in realtà ci restituiscono il chilometro zero, ecco, esattamente, ci restituiscono l'impressione che in realtà non è proprio una situazione solo da riso amaro per i contenuti che le proposte fanno, ma c'è una tendenza politico-culturale che si traduce in legge che potrebbe aumentare. Bisogna vedere adesso se nella prossima legislatura il numero già in aumento di queste proposte non continua ad aumentare. Bisogna tenere un po' alta l'attenzione. Allora, come vedete, politicamente non c'è famiglia politica che non protenda al paternalismo di Stato con vari gradi di coattività, perché adesso andiamo all'obbligo di mensa pubblica, ma il problema è anche la coattività su chi deve offrire cosa di fronte a una libertà che io difendo, la libertà consapevole, informata. Certo, i bimbi devono crescere sapendo i principi generali di un'alimentazione equilibrata, ma poi esiste la libertà dell'individuo informato e consapevole, non il menù di Stato, per così dire. Però prendiamone atto, Giuseppe, la politica italiana offre tra le tante sue caratteristiche il fatto di essere diventata trasversalmente convinta che sarebbe opportuno che lo Stato mettesse limiti e obblighi sulla dieta. dietro chilometro zero, è inutile che io richiami a chi ascolta, me lo avete sentito dire molte volte, c'è naturalmente una polemica tra virgolette frontale contro la grande distribuzione, accusata di manomettere i meccanismi tra virgolette naturali della filiera delle riforniture di frutta e verdura. Questi meccanismi naturali non capisco quali siano, se non quelli della soddisfazione della domanda e dell'offerta, però per capirci, dietro queste cose ci sono profondi, radicati e oramai trasversalissimi pregiudizi politici. Ma andiamo allora da ciò che ha, almeno in me, fatto nascere anni fa l'interesse verso questa faccenda, perché è di nuovo con noi, io lo ringrazio, l'avvocato Giorgio Vecchione, che da Torino è stato fulcro e l'animatore di una tenace, caparbia, ci vuole una pazienza infinita ovviamente per fronteggiare lo Stato, che è molto più potente in giudizio quando c'è l'intera amministrazione scolastica locale e centrale che si oppone, fino a far affermare in corte d'appello il diritto delle famiglie al panino invece dell'obbligo di refezione, in attesa di sapere come la Cassazione si pronunzierà sull'impugnativa del Ministero. Intanto oggi trovate su Repubblica a pagina 19 una pagina che illustra l'estensione pian piano del fenomeno dell'obiezione riconosciuta come diritto per legge delle famiglie all'obbligo di refezione e di contribuzione alla refezione. Allora, avvocato Vecchione, come vanno le cose? I numeri si stanno estendendo? In che proporzioni sono attendibili questi numeri della prima ricognizione, secondo lei, avvocato? Buonasera, dottor Giannini. No, allora, i numeri, noi abbiamo qualche dubbio sulla correttezza di quei numeri, perché già lo scorso anno i bambini, almeno limitatamente a Torino, che non fruivano della refezione, erano circa 6.000. A leggere quello che leggiamo questa mattina su Repubblica, invece pare che siano di meno. Secondo noi sono molti di più e stiamo cercando di approfondire, facendo delle richieste al Comune, che probabilmente farà fatica a darci questi numeri. Comunque si tratta di numeri, la platea degli iscritti, leggo su Repubblica, sì, sì, è 32.272, quindi la percentuale delle famiglie che esercitano il diritto all'obiezione è diventata a doppia cifra. No, assolutamente sì, i bambini invece delle scuole medie che non fruiscono della refezione sono circa 12.000, quindi è vero che loro prevalentemente escono, non è che si portano il pasto da casa, però c'è questa fuga, chiamiamola così, fuga da un sistema pubblico che ha tradito tremendamente la fiducia e ha portato i genitori a una situazione di... sono esausti. Cioè, Repubblica dice, elenca le città: Venezia, Mestre, Verona, Genova, Firenze, Milano, dove sono però pochissimi a quanto pare, Napoli, dove c'è un comitato ad hoc, mai il ricorso, insomma, però dicono che il motore, molti si appoggiano su di lei, è vero? Purtroppo sì. Dire che, quando lei parlava di pazienza, sì, ce ne vuole veramente tanta, anche perché mi trovo a fronteggiare situazioni che sono ai limiti del grottesco. Questa mattina mi parlavano di genitori di San Giorgio a Cremano intenzionati a esercitare questi diritti e minacciati dalla dirigente scolastica, che se li lasciavano a casa col pasto da casa venivano minacciati di abbandono di minore, che avrebbero chiamato i carabinieri per abbandono di minore. Questa è una cosa che fa da un lato sorridere, dall'altro veramente sottolinea la grettezza della Ma situazione. Io posso chiedere una valutazione? In questa tenacissima resistenza dell'amministrazione scolastica, abbiamo più volte passato, li ho sintetizzati all'inizio, c'è chi sostiene il mangiare insieme è un momento fondamentale della costruzione dell'identità singola e collettiva a cui deve mirare la scuola come missione educativa. A me scappa da sorridere, però questo è uno dei principali argomenti. Il secondo argomento era il contagio, il rischio di contagio per i cibi preparati a casa. Come è noto, noi famiglie avveleniamo i nostri figli con cibi avariati. Il terzo era locali separati, questo comporta un obbligo di personale aggiuntivo, non ce l'abbiamo. Ecco, ma al di là di tutto questo, com'è che l'amministrazione centrale, anche di fronte alle sentenze, impugna e dice no, no e no? Io ho sempre ipotizzato che le amministrazioni, di fronte al fatto di avere obiezioni così forti una volta riconosciuto il diritto e che a quel punto entrano nella base delle gare indette rispetto al numero, alla platea integrale garantita allo giudicatario, la vera questione sia quella economica. Mi sbaglio, secondo lei? No, assolutamente non si sbaglia. La posizione del Ministero, diciamo che Da un lato io riconosco perfettamente il diritto del Ministero di fare ricostruzione, ci mancherebbe altro. Dall'altro il Ministero, con una nota di marzo di quest'anno, ha semplicemente detto aprite i refettori, fate attenzione a che non ci siano scambi di cibi, e il problema tendenzialmente a livello centrale dovrebbe essere stato risolto. Così purtroppo non è, perché più ci allontaniamo da Torino e più l'interpretazione di questa circolare sono variegate. Non so, ad esempio nel comune di Guidonia c'è una fortissima resistenza, non dell'amministrazione comunale, ma ai dirigenti scolastici che, nonostante ci sia stata una nota dell'ASL territoriale Roma 5, che dice portate tranquillamente tutto quello che volete, fate attenzione a evitare scambi di cibi, i dirigenti, in attesa di un regolamento di cui non sa quando verrà approvato, se verrà approvato, perché i consigli d'istituto poi non è detto che approvino lo stesso regolamento, condanna questi bambini a consumare pasti secchi in aula. Allora, queste sono ovviamente delle soluzioni che sono folli. Quando poi lei parlava del ruolo educativo della mensa e così via, allora è forse meglio consentire a un bambino di portare il proprio pasto da casa e consumarlo nello stesso locale con i suoi compagni, oppure, come è la soluzione di molte scuole, dire non vuoi la mensa, prendi, esci e ritorni un altro. Quindi il principio dell'inclusione, il principio fondamentale dell'inclusione del tempo mensa, che il Ministero e la legge definisce tempo mensa, non servizio mensa, sono due cose profondamente diverse l'una dall'altra. Allora, questo accanimento che io, ripeto, se non per la questione economica, se non per il business che sta movimentando, non lo capirei, però non riesco a capire come mai soggetti istituzionali, quali i dirigenti scolastici e il Ministero, facciano queste abbiano poi comportamenti così variegati. Ma poi la questione naturalmente riguarda anche la giustizia, perché a Napoli, per esempio, la richiesta che è stata depositata dal comitato di genitori volto al riconoscimento dell'esercizio di questo diritto è stato respinto. Quindi insomma, mille sentenze diverse. Comunque io la prego, avvocato, di restare con noi, perché dopo l'introduzione sulla borsa e con un po' di pubblicità abbiamo con noi il sindaco di Benevento Mastella, che ha appunto anch'egli ha in realtà emanato una direttiva per la quale obbligo di mensa, e a Benevento i genitori hanno impugnato in nome del fatto che vietare il pasto da casa fosse sbagliato. E quindi ci facciamo spiegare da lui perché ha emanato questa direttiva il sindaco di Benevento. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Allora, molti di voi mi fanno lezione sul fatto che veganesimo e vegetarianesimo non sono assolutamente la stessa cosa. Infatti li abbiamo elencati nelle proposte di legge che propongono entrambi, non sono la stessa cosa, ma le propongono. Alcune sì, altre no, sono solo vegani. Altri mi fanno lezione dicendo: proponi anche l'obiezione di matematica, coglione. Ecco, grazie del coglione. No, l'obiezione di matematica ha a che vedere con l'istruzione curricolare, mentre il menù di Stato è un'altra cosa. Se vi sfugge, stiamo parlando proprio della differenza rispetto all'idea che voi volete uno Stato che vi dice cosa mangiare e cosa bere. Io invece penso di no. Ecco, tutto qua. Ecco, e penso che se c'è una corte d'appello che riconosce un diritto, l'amministrazione pubblica naturalmente può disconoscere la sentenza, però come vedete non è un'invenzione, perché una corte d'appello dice che c'è un diritto delle famiglie a mandare i figli con il proprio pasto da casa, e l'amministrazione pubblica non può disconoscerlo, si deve organizzare di conseguenza. Alcuni dicono: ti voglio vedere te, liberista del piffero, se poi uno mangia una nocciolina portata da casa di un altro, chi va nei guai? Ci vai tu nei guai? Benissimo, il paradosso è l'arma di chi non ha logica, ecco, è come ho detto già stamattina, ma è proprio, io, come vedete, non perdo la calma, non voglio convincere nessuno, però voglio semplicemente, ancora una volta, diritto alla mano, però non perché stiamo predicando, approfondire il tema e dopo aver reso atto del fatto che tutte le forze politiche, il PD, Forza Italia, i 5 Stelle, pensano che sia fondamentalmente giusto non limitarsi all'istruzione alimentare, sono d'accordo, ma anche che la legge dica cosa bisogna vendere e cosa no, in che giorni della settimana, cosa devono proporre nei menù i ristoranti. Ecco, a me fa un po' venire i brividi questa cosa. Siccome il sindaco di Benevento per il momento non ci sta rispondendo, iniziamo con le vostre telefonate. Cominciamo con Stefano dalla provincia di Venezia. Stefano. Sì, pronto. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, adesso stavo un po' sorridendo perché come al solito poi le esagerazioni non vanno mai bene. E sono d'accordo. Su questo mi trovo perfettamente d'accordo. Poi dico ancora che giuro che veramente non pensavo che con tutto ciò che c'è da fare in Italia, come lei ricorda sempre, ci fosse qualche politico che avesse tempo di scrivere quelle cose. Ma guardi che le proposte sono più di 25. Ecco, e quindi ho detto, adesso voglio ascoltare un attimo prima per vedere qual è il taglio che viene dato, e anche su questo rimango basito perché non è possibile una cosa di questo genere. Dopodiché ne ho un po' però anche per altri, diciamo, un po' anche per lei. Come giusto? Ecco. Sì, ma perché? Perché allora lo dico, allora sono un papà, ho avuto mio figlio a scuola dove si parlava di cosa dare da mangiare, sono un ascoltatore, per altre cose sono anche un biologo, per cui insomma potrei anche avere un'idea un po' certo, così proprio specifica. Ecco. Forse lei magari a volte un po' esagera che lo Stato ci debba dire cosa, il menù eccetera, però certo è che se la scuola di Stato deve dar da mangiare alle elementari piuttosto che alle me, credo che sia un dovere sacrosanto stabilire i caratteri generali, cioè io devo avere un'alimentazione che abbia una percentuale equilibrata, esatto, di carboidrati, proteine, frutta, verdura, eccetera. Ecco. Detto questo, sono anche convinto però che, siccome avete parlato di tantissimi aspetti, non è una guerra alla grande industria, alla grande distribuzione. No, in generale eccetera. No, alcune proposte nelle relazioni tecniche motivano così però le loro proposte. Certo, però io ad esempio mi sono trovato un po' a doverne discutere da padre quando appunto mio figlio era a scuola. Non è certo la stessa cosa se uno mi fa mangiare, adesso non vorrei troppo tediare nessuno, però insomma se tu mi fai mangiare i pomodori a dicembre perché la scuola se no metti i pomodori, cioè, non ha nessun valore nutrizionale, non ha la minima parte di licopene come quelli che hanno a luglio ad agosto. Ecco, certo. Adesso mangiamo la zucca, i finocchi, il cavolo, il broccolo eccetera. Ecco, però questo è sensato, non è una lotta a nessuno. Io per me scelgo spessissimo i cibi biologici, le mie cose eccetera, però io dico, se devo mangiare i cereali sarebbe bello che ci fosse una conoscenza della quinoa, di questo, di quello, di cereali senza glutine, di questo, è diverso che imporre. Esatto, la conoscenza è un conto, credere che le sementi danneggino la salute, insomma ne abbiamo parlato tante volte degli OGM, del limite italiano che ha sfasciato la ricerca, che era molto avanzata italiana su quello, e quando poi significa che poi noi importiamo invece sementi che vengono regolarmente trattati in quel modo, ecco, lì stiamo parlando di un'altra cosa, non del giusto mezzo e dell'informazione e dell'equilibrio, stiamo parlando di, tra virgolette, pregiudizi. La distinzione è solo questa. Poi alcune proposte di legge che dicono che i ristoranti, in alcuni giorni della settimana, lo Stato ha deciso che non dovete dare carne, mi scappa un po' un sorriso, perché siamo a Orwell naturalmente alla matriciana, se posso dire, perché poi all'italiana si trova sempre la fantasia nel nostro paese. Bene, allora le strade, poi torniamo con le vostre telefonate. Il sindaco non c'è, mi dicono, per il momento non risponde. Intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, siamo tornati in studio e grazie al sindaco di Benevento Clemente Mastella, che ha trovato per noi sul tema di cui parliamo oggi, che non è la grande politica, l'alleanza, la legge elettorale, però è il diritto delle famiglie al panino da casa, oppure l'obbligo di mensa. Ho ricordato prima che il sindaco aveva emanato un regolamento che diceva no, noi dobbiamo, siamo tenuti all'obbligo di mensa, e è stato sospeso per un'impugnativa che origina da famiglie di Benevento. Intanto buon pomeriggio sindaco. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora, io devo dire, perché lei è di Benevento, il sindaco di Benevento, ma chi ci ascolta non se lo ricorda, anni fa, quindi non attiene alle sue responsabilità, Benevento, per un'indagine che partì nel 2011, per lungo tempo è stato uno degli argomenti fondamentali della politica cittadina, perché ci fu un'indagine che appurò che l'azienda che si era aggiudicata l'appalto della mensa scolastica faceva vasto utilizzo di cibi avariati, avanzi, cibi scadenti, grassi saturi riciclati e così via. Il pregresso ovviamente non ha a che vedere con questo, però insomma proprio a Benevento ci fu una vicenda di questo tipo. Perché lei però ritiene col suo regolamento che l'obbligo di mensa, di refezione offerta quindi dalla struttura pubblica non possa contemperarsi con il diritto delle famiglie, panino, refezione da casa, quello riconosciuto dalla Corte d'Appello di Torino? Ma innanzitutto che c'è stata sentenza recente del Tribunale di Napoli che ha stabilito, secondo un criterio a giudizio del giudice di natura costituzionale, perché bisogna che ci sia l'eguaglianza da parte di tutti, e quindi l'obbligo e anche l'obbligo dell'eguaglianza sanitaria, perché evidentemente la scia che oggi viene stabilita nel momento in cui c'è un servizio di natura pubblica e quindi l'assegnazione di un appalto pubblico ha una maggiore, diciamo, possibilità e opportunità di essere controllata diciamo la merce prima e il prodotto dopo, quando non si invece nel fatto del panino libero. Però c'è anche un altro elemento. Io l'anno scorso ho sperimentato il panino libero, cioè ognuno poteva portare, però abbiamo avuto, rispetto alla possibilità, l'opportunità della mensa sì, mensa no, eccetera, possibilità libera, avevamo appena 200 bambini a scuola con la mensa che c'era stata, e quindi determinando la possibilità dell'approdo e una scelta libera, di cui di questi 200 bambini, quindi si interessavano quasi 200 famiglie, 100 appena pagavano e 100 no. Allora, l'anno scorso abbiamo fatto il panino libero e è andato male perché c'erano problemi e inconvenienti. Quest'anno abbiamo determinato questa scelta, però a differenza di quando lei ha detto ad esordio, è stato sospeso il giudizio di merito, sì, nei confronti dei genitori, sì, non ragione, da parte nostra. Ha ragione. E noi andremo avanti per quando ci riguarda. Quindi non siamo stati sospesi, hanno fatto domande di sospensione e il giudice ha rinviato a marzo, quindi assolutamente no. Quindi io vado avanti con l'obbligatorietà, perché ritengo in coscienza che sia la cosa migliore in questo momento. Se poi la norma dovesse essere di tipo contrario, ne prendo atto. Ma è un po' qual è rispetto a questo, sì, però il dato vero, le devo dire, che il governo, il Parlamento, purtroppo non legifera. Cioè non possiamo far giudicare la mensa, la decide anche qua il giudice, per incapacità o per questo non posso che darle ragione, però della classe politica. È una questione pluridecennale, come sai, che la investita anche amaramente con ristoro tardivo, sì, sì, sì, esatto, e non proporzionato, per così dire, esatto, ma se figuri se non gliele do atto. Però il problema è che poi in un'Italia in cui ci sono pezzi d'Italia, grandi città, Torino, Milano, abbiamo ricordato, eccetera, in cui il diritto viene riconosciuto, altri pezzi d'Italia in cui il diritto non viene riconosciuto. È un po' singolare questa condizione. Sì, è così. E anche qua, cioè, ci dovrebbe essere una disciplina unica, cioè il Parlamento decida, scenda nel merito e stabilisca la condizione, vogliamo lasciare libertà, perché noi sindaci non siamo neppure in grado di decidere se siamo, come vedi, il panino libero o non, perché poi c'è una sentenza del TAR o magari il tribunale, sì, eccetera, sì, no, che fa l'esatto contrario di quello che abbiamo deciso noi, quindi non abbiamo autonomia. Un fatto. Il Parlamento non decide e lasciamo i giudici va decidere bene. Io intanto il cuoco diventa il giudice. La ringrazio, esattamente, il cuoco. Beh, mi mancava anche questa attitudine professionale, ma gliel'abbiamo riconosciuta in Italia. Non si capisce bene quale mestiere manchi oramai al giudice. Però detto questo, avvocato Vecchione, lei che dice? Allora, vorrei fare due osservazioni a quello che ha detto il sindaco Mastella. Innanzitutto richiamo un'ordinanza del Tribunale di Napoli che è stata riformata e annullata dal Collegio. Quindi l'ordinanza della dottoressa Gargia che declinava la mensa come obbligatoria perché realizzava i principi di uguaglianza non c'è più in questo ordinamento, è stata completamente annullata dal Collegio. E la seconda? E la seconda è il fatto che il TAR della Campania, quando si è pronunciato sul nostro ricorso contro il regolamento del Comune di Benevento, non è che ce lo ha respinto perché era un ricorso infondato, ha semplicemente detto che il nostro diritto, quindi riconoscendo l'esistenza del diritto al pasto da casa, non era al momento minacciato dall'istituzione del servizio pubblico, perché il servizio pubblico non solo non era istituito, ma non era stato neanche programmato. Resta, quindi, resta il fatto, avvocato Vecchione e sindaco Mastella, che viviamo in un'Italia nella quale, insomma, questo è un diritto non diritto ancora. E così, cioè, in questo il sindaco, secondo me il sindaco di Benevento ha ragione nel dire, ma insomma, ci dicano una direttiva chiara. Pezzi di amministrazione scolastica e pezzi locali interpretano in maniera divergente questa storia. Comunque andremo avanti, perché io continuerò ad occuparmene. Grazie al sindaco Mastella per aver trovato il tempo di spiegarci la sua posizione, grazie all'avvocato Vecchione. Continuate su Radio 24, appuntamento domani alle 8:15 con me e Luca Telese a 24 mattino, e poi pomeriggio alle 16 qua la versione di Oscar.